Gigi D'Agostino. Un suono per gli amici e per i parenti. Movimenti incoerenti. Movimenti incoerenti. Il sentiero di oggi è un po' sterrato. Qui c'è la musica di Gigi D'Agostino. Benvenuti nel nostro giardino. Qui c'è la musica di Gigi D'Agostino. Benvenuti nel nostro giardino. Il cammino di Gigi D'Agostino. Il sentiero di oggi è un po' sterrato, ma il nostro cammino non si è fermato. Qui c'è la musica di Gigi D'Agostino. A volte è scontrosa, a volte è più dura, ma la vostra mente viaggia sicura. A volte è scontrosa, a volte è più dura, Il sentiero di oggi è un po' sterrato, ma il nostro cammino non si è fermato. Movimenti incoerenti. La nostra costanza attraversa anche i sassi. Gigi D'Agostino non ferma i suoi passi. Non ferma i suoi passi. Non ferma i suoi passi. A volte è scontrosa, a volte è più dura, a volte è scontrosa, a volte è più dura, è scontrosa, a volte è più dura. Il cammino di Gigi D'Agostino. La vostra mente qui viaggia sicura. Benvenuti nel nostro giardino. Qui c'è la musica di Gigi D'Agostino. La vostra mente qui viaggia sicura. Martedì 26 dicembre, Santo Stefano Elettronico. Discoteca 2, a Cigliano, vicino a Torino. Ciao, sono Gigi D'Agostino. Ah, ecco. No, era per fare la rima, no? Di Gigi D'Agostino è a vostra disposizione. Oh! 3-3-3-6-4 6-7 6-6-2. Capito come? Il cammino di Gigi D'Agostino. Il mondo è un libro e quelli che non viaggiano ne leggono solo una piccola parte. Sant'Agostino. Ogni giorno, all'ora sesta, c'è la musica che appesta. Muovi un po' la testa. Della musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, Il sentiero di oggi è un po' sterrato. Movimenti incoerenti. Il sentiero di oggi è un po' sterrato, ma il nostro cammino non si è fermato. La nostra costanza attraversa anche i sassi. Gigi D'Agostino non ferma i suoi passi. Gigi D'Agostino non ferma i suoi passi. Un suono per gli amici e parenti. Movimenti incoerenti. Non sono un uomo diverso, sono un po' perso. Ma questo è il mio universo. La danza è una poesia in cui ogni parola è un movimento. Mata Hari. Il cammino di Gigi D'Agostino. Il tuo peperoncino. Alla faccia di chi ci vuole male. E non distingo lo zucchero dal sale. e mentre costruisce la nostra cattedrale, Gigi D'Agostino ci augura buon Natale. Devo leggere un aforisma. È meglio augurare buon Natale che cadere dalle scale. No, vabbè, a me sembra molto profondo come pensiero. Cioè, in apparenza sembra un pensiero molto banale, direi quasi stupido, ma poi invece pensi e cerchi il significato profondo della cazzo che ho appena detto a cosa? Io non li sopporto quelli che cominciano le frasi e poi non le finiscono. Dai la missata, vai G. Credo che un vero amore per l'arte sia un dono quanto crearla. E che può anche essere che entrambi scaturiscano dalla stessa sorgente mentale. Bernard Berenson. Ti amo. Sono perduto. È tutto quello che so. Spettacolo, frate. Gigi. Il cammino di Gigi D'Agostino. Reparto pelle d'oca. Venerdì 22 dicembre 2006, Gigi D'Agostino suona a Torino. Discoteca Patio Club. Ci vediamo lì. Il cammino di Gigi D'Agostino. Di Gigi D'Agostino. Ciao Ciao, sono Gigi D'Agostino e volevo salutare la mia mamma e il mio papà perché non li vedo quasi mai. E niente, adesso vado avanti a suonare. Volevo chiedere scusa a tutti gli ascoltatori, ma dovevo salutare i miei genitori. Oh, ma che poeta sono. Gigi D'Agostino, un suono per gli amici e parenti. Movimenti incoerenti. La notte di Capodanno, il 31 dicembre, ci vediamo a Rimini, discoteca Altro Mondo. Io comincio a suonare alle ore 20, se arrivi tardi ti rigo i denti. No, è sempre solo per far la rima, perché, capito? È perché io ogni giorno mangio pane e poesie, e dopo questa me ne vado via. Ciao, sono Gigi D'Agostino e ho qualche piccolo problema di equilibrio al suolo. Gli ostacoli sono quelle cose terribili che si vedono quando si distoglie lo sguardo dagli obiettivi. Henry Ford. Sono Gigi D'Agostino, volevo risalutare ancora una volta mia mamma e mio papà perché non so se mi stanno ascoltando. Allora, mamma, papà, volevo augurarvi buon Natale e un felice anno nuovo, spero di vedervi molto presto. Ciao, vado, continuo a lavorare, scusate. Fermate di suonare perché devo esplicar. Fumar provoca cancer mortal de pulmon. Hola, pota. Non si può fumare, hombre. No, perché poi uno dice, ma non me l'avevi detto. Gigi D'Agostino. Non si può fumare, hombre. Mando la pubblicità. Non ti piacciono i salumi e neanche la mortadella? Ascoltati la campanella. No, Ah, era per fare la rima. No, comunque sono qui che sto lavorando, non è che mi sto grattando le mozzarella. È il cammino del Gigi D'Agostino. Musical. Mental. Musical. Mental. Musical. Mental. Gigi D'Agostino. Un DJ con le palle. Apprendere che nella battaglia della vita si può facilmente vincere l'odio con l'amore. Con l'amore. La menzogna con la verità. La violenza con l'abnegazione. Dovrebbe essere un elemento fondamentale nell'educazione di un bambino. Gandhi. Un viaggio incontaminato, un sentiero innamorato, la semplicità di un bambino, il cammino di Gigi D'Agostino. Un attimo di attenzione. Martedì 26 dicembre, Santo Stefano Elettronico. Discoteca Cigliano. Discoteca 2 a Cigliano. Giardini. Qui c'è la musica di Gigi D'Agostino. Quiero ballar. Quiero ballar. Musica mentale. Quiero ballar. Musica mentale. Quiero ballar. Musica mentale. Quiero ballar. La mia mente è smusicosa. Non intendo altra cosa. La mia mente è smusicosa. No, così. Stop.

attraverso questo cammino potete lanciare il vostro pensierino. 3 3 3 6 4 3 6 7 6 6 2. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino, ho già detto, più piano, piano. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. No, perché qualcuno mi ha scritto che non riesce a capire quando parlo. Neanche io riesco a capire quando parlo. Quando uno sta per dire una frase e cioè quando uno sta parlando dovrebbe cercare sempre di far capire cosa sta dicendo al suo interlocutore. Perché l'altra persona è giusto che capisca cosa vuoi capito? Ah, ecco. È il cammino del Gigi D'Agostino. Di Capodanno, il 31 dicembre, ci vediamo a Rimini, discoteca Altro Mondo. Io comincio a suonare alle ore 20. Discoteca Altro Mondo. Io comincio a suonare alle ore 20, se arrivi tardi ti rigo i denti. No, è sempre solo per far la rima, perché... capito? Ricerca continua.

Ci sentiamo domani. Grazie.